sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Scuso in partenza con chi mi ascolta perché non sarò nella forma consueta, ma non è esattamente una delle mattine migliori della mia vita. Ma nonostante questo vorremmo affrontare l'argomento del giorno che, grazie a Dio, mi vede affiancato dall'ottimo Giuseppe Sansonna. Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Questa mattina noi vorremmo dare giustizia e gloriosa esistenza a quelli che sono i veri mostri rappresentati dal cinema italiano. Noi abbiamo parlato con Sansonna in questi ultimi mesi di una realtà specularmente riflessa e distorta dal cinema di genere italiano, ma non soltanto dal cinema di genere, anche dall'eccelso riconosciuto e titolato cinema italiano del nostro paese. Il nostro paese passa attraverso riflettori, chi lo vede, chi lo interpreta, chi lo filtra attraverso la sua sensibilità o attraverso lo spirito del tempo, attraverso la cifra esistenziale che ogni momento, che ogni decennio, che ogni inclinazione, che ogni deriva delle circostanze politiche, economiche, sociali, ma anche esistenziali, personali, del regista, dell'autore, degli attori, permettono di modificare e alterare la realtà. Ma in queste realtà alterate esistono delle genetiche radicali, fisiologiche e irreversibili mostruosità, che non sono connotate, mi pare, Giuseppe, né da un particolare momento, né da un particolare messaggio che si vuole attribuire a una ricostruzione. No, sono esseri umani che la natura fece difformi e che fece totalmente diversi, non per questo meno espressivi, non per questo con minore degnità di esistenza o di espressione, ma che per una fortunata, probabilmente per loro, anche per noi, circostanza, il cinema ha preso e ha rappresentato come meravigliose icone di una diversità talmente evidente, talmente forte, talmente conclamata da assumere il livello e il rango di eccezionalità. Cominciamo subito, visto che entriamo nelle esemplificazioni. Diciamo che ci sono due tipi di mostruosità. Una mostruosità in cui l'arte, l'artificio, l'artefazione cinematografica ha fortemente operato. Quindi si prende una persona che di mostruoso in realtà non ha nulla. Mostruoso intendo come stupore rispetto a una conformazione esteriore che è nella norma. È mostruoso tutto ciò che colpisce il mio occhio. Qualcosa può essere anche mostruosamente, meravigliosamente è degno della mia attenzione, può stravolgermi, può cambiarmi la vita, cambiarmi l'esistenza. Anche un amore folle è mostruoso, è una mostruosità perché ti deforma, ti cambia. Anche un dolore atroce è mostruoso perché improvvisamente fa vedere la realtà sotto un altro punto di vista. Vedi e valuti persone e circostanze secondo una ponderazione che non è quella consueta e comune. Beh, esistono mostruosità, quindi artefatti. Si prende una persona che rientra nei ranghi e la si mostrizza per volere dare teatralmente, cinematograficamente, la rappresentazione di una mostruosità. E questo è il primo caso che noi tratteremo. Su, non assalirmi, buona, buona, su. Dai, sali sull'albero. Ma non capisci, non capisci. Tu sei la donna scimmia, io ti ho catturato in Africa. Sei allo stato selvaggio, hai capito? Allo stato selvaggio. Tu devi cercare di assalirmi quando io con la frusta faccio così. Oh! Così, capito? Poi cerchi di saltarmi addosso e infine sali sull'albero. Sì, ma io sto facendo il minestrone. Ma cosa me ne frega del minestrone? Oh! È uno spettacolo questo qui. Dobbiamo montare un numero. Il pubblico paga e vuol vedere delle cose. Non può accontentarsi di guardarti in faccia e basta. Tu devi cercare di imparare, di arrampicarti, di far vedere, non so, che sei una specie di Tarzan. Ah! Antonio! Ma soltanto il minestrone allora sai fare. Ammazzali! Questa è La donna scimmia, un film del 64 diretto da Marco Ferreri con Ugo Tognazzi e Annie Girardot come interpreti, che partecipò al 17° Festival di Cannes. Lo leggo su Wikipedia, non è che abbia una enciclopedica conoscenza di cinema, qui Sansonna per questo. La storia di un tale cialtrone Antonio Focaccia, che è un farabulano, imbroglione, arraffone, capita in un convento di monache per vendergli le sue insulsaggini, si accorge che tra le orfanelle ce n'è una mostruosa, che per pietà le donne, le povere, le pie sante monachelle tenevano lì, come accadeva in certi istituti religiosi in cui i mostri, le deformità enormi della natura, coloro secondo una credenza inveterata, erano toccati e lambiti da un segno divino, quasi da una stigmata di maledizione, isolamento e dannazione, vanno messi nei conventi. E trova questa donna coperta completamente di peli. E cosa ne fa? Tognazzi, appunto, qui rappresenta il cialtrone, qui abbiamo un Tognazzi che nella fase in cui si sta trasformando da attore comico tradizionale nell'elemento principe cardine del grottesco di Ferreri e Azcona. E quindi è lui il raggelante uomo medio, è lui il vero mostro che raccoglie questa donna e la trasforma in un fenomeno dal baraccone, la porta in giro e quando poi morirà nel dare alla luce un figlio la imbalsamerà. Questa è una storia vera, ispirata alla storia di Giulia Pastrana, la donna ipertricotica che esiste veramente, che subì questa sorte. Quindi c'è un utilizzo, c'è la riproposizione del tinello, cioè lui che cerca di imporle di sai fare solo il minestrone, però vorrebbe anche trasformarla in questa sorta di fenomeno da baraccone da utilizzare, quindi la mostruosità come elemento economico nell'ipocrisia generale di una... No, tu parla, perché io sto cercando una cosa su Wikipedia che è venuta in mente, un esempio. Ecco, io ricordo questo episodio realmente accaduto della Venere 88. La Venere 88 era una signora africana che fu portata a Londra nel 1810 ed esibita a lungo perché aveva delle particolarità genetico-morfologiche. E la Venere 88 anche lei fu imbalsamata, soprattutto fu imbalsamata alle sue pudenda perché aveva una particolarità particolare. C'era questo episodio in cui l'uomo civilizzato, ricoperto e ammantato da callidità, da spirito rapace, da voglia di usare fino in fondo anche la difformità, prende, in questo caso è Tognazzi, qualcuno che apparentemente, secondo i canoni correnti della merce che lui spaccia, è considerato mostruoso, e che nella sua esposizione invece dimostra la mostruosità dell'uomo normale. Il vero mostro è Tognazzi in questo caso. L'uomo medio di cui parlava Pasolini nella Ricotta, è raggelante in questo, inquietante in questo, nella sua... Infatti non è un Tognazzi ancora mostro di risi, è un Tognazzi anche che si tiene contenuto nella recitazione, che attraversa questo con indolenza e con automatismo, con meccanicità, tutto questo trasformare in fenomeno da baraccone la sua donna, che poi è la splendida Annie Girardot, il massimo della bellezza che si mette in gioco e si trasforma nel massimo dell'orrore. Ecco, sto leggendo notizie su questa Venere 88, mi colpì, era alta pochissimo, fu presa 187 anni fa, si chiamava Sartiglie, e soltanto dopo 200 anni è stata regolarmente seppellita. Hanno deciso che era ora di finire con questo sconcio di mostrare il mostro, la diversità, questa ragazza africana nuda che è stata mummificata e considerata come esempio di una beltà, che poi, beltà fino a un certo punto, che rappresentava mondi arcaici e scomparsi. Dopo averli distrutti si tiene l'icona, la reliquia del mondo scomparso. Si tiene anche, forse è anche qualcosa di superstizioso che si lega attorno a questi fetici, questo feticismo estremo e perverso, cioè è come toccare la gobba perché porta fortuna, cioè, secondo me rientra un po' in questo sistema di contatto col mondo dell'altro, nelle sue punte estreme, insomma. Invece la storia di Tognazzi, leggo sempre su Wikipedia, visto che ci abbiamo sotto mano, si ispira alla storia vera di Giulia Pastrana, che è una donna ipertricotica realmente vissuta nell'Ottocento. Nell'Ottocento c'era questa mania di classificazione delle difformità tipicamente lombrosiana, prendere, classificare, osservare, misurare, trovare il segmento auro che definiva in realtà quale fosse l'uomo eccelso rispetto a queste difformità della natura. Era nata in Messico, Giulia Pastrana, sfruttata come fenomeno da baraccone da una famiglia, che Theodore Lent, che alla fine davvero la fece imbalsamare assieme al figlio neonato quando entrambi morirono a Mosca durante la loro tournée. Le mummie della donna e il figlio sono tuttora conservate ad Oslo. Ecco, vede padre, io ho un difetto. Lo so, figliolo, sì. Un difetto fisico, intendo dire. Sì, ho capito, di pure liberamente. Ecco, vede padre, scusi padre, vede qui di profilo? Vede, il naso mi scende, di profilo si vede perfettamente. Ma chi non ha un difetto, scusi? Anche Sofia Lore viene male di profilo. Chi? Sofia Lore viene malissimo, glielo dico io. Per fortuna che la TV mi prende di faccia, così nessuno se ne accorgerà mai. Roma. Qua siamo nella attualità più stretta, anche se il Dentone, Alberto Sordi il Dentone, risale agli anni felici di Via Teulada, quando la Rai da una realtà torinese calò su Roma e cominciò a diventare qualcosa che era metafora, televisione, cinema, tutto quel clima da dolce vita, da produttori, da starlet, da mercimonio di carne fresca in cambio di visibilità, si spostò in un luogo molto vicino ai palazzi del potere. Da lì la storia poi continua fino ai giorni nostri. Alberto Sordi, il dentone, è il mostro, colui con una difformità fisica talmente evidente da rendere impossibile a uno sguardo semplicemente banalmente oggettivo il suo essere speaker della televisione. Ma in realtà, come dimostrerà poi la televisione, che non terrà conto né dei talenti né delle predisposizioni naturali, ma tanto del fatto che lì necessariamente qualcuno avere questo premio alla visibilità, non lo voleva perché lui non aveva i 4/4 nobiltà. Però lui era bravissimo, mostruoso ma bravissimo, e alla fine ce la farà. Mostruoso era anche il suo talento, era incredibile la sua capacità, la sua conoscenza, la sua preparazione, e secondo il suo modus vivendi di uomo colto non aveva nessuna importanza avere i denti sproporzionati, mentre per tutto il contesto intorno degli esaminatori della Rai i suoi denti sono un problema, ma nessuno ha il coraggio di ammetterlo. Solo il prete gli dice a un certo punto: figliolo, un atto di immodestia, vedi magari la Radio Vaticana che non ti si vede. Dice: no padre, il futuro è la televisione, perché devo andare alla radio, disse allora. Con grande intuizione, poi alla fine il dentone approderà nel grande schermo e conquisterà anche le Kessler, insomma questa sarà la degna conclusione. Trovo che sia molto lucido però in un anno in cui nasceva la televisione piena di attese, piena di desiderio, pari passo con il boom economico, cresceva il benessere, cresceva questa sorta di idillio con i personaggi eccelsi a televisione, le gemelle Kessler, le presentatrici di cui oggi c'è pochissima traccia. Le Kessler l'altra sera erano ospiti di Gerry Scotti. I poverine provavano a fare un balletto, qualcosa, rifacendo il Dada Umpa, ma in realtà erano due signore di oltre 70 anni, per quanto benissimo tenute, per quanto meravigliose, era una sorta di resumazione, assomigliava già al passo precedente alla mummificazione della donna scimmia o della donna pelosa. 800240024, cominciamo a definire il ruolo della mostruosità nella vostra vita quotidiana, nella contemporaneità, e i segni della mostruosità che hanno costellato il nostro immaginario. Sentiamo Antonio. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire questo, sono totalmente d'accordo con lei, diciamo, stamattina, perché la mostruosità funziona sempre, anche oggi, ma soprattutto la mostruosità di quelli che si nutrono della mostruosità. E le faccio un esempio proprio quello più, diciamo, odierno. Io ho letto sul giornale di un poverino, non so, in Cina, l'uomo più piccolo del mondo. Sì, ecco, che è grande morto, personaggio, esatto, della nostra televisione. Esattamente, io l'ho visto una volta in televisione, mi ha fatto una pena terribile. Con la Durso, però, si ricorda? Sì, però ancora funziona benissimo. Quindi io penso che, insomma, il discorso dei mostri sia una specie di pornografia, se vuole, estetica. E quindi funzionerà sempre, purtroppo. Però io mi pongo un problema. Dal Dica. Momento che la mostruosità esiste, inutile edulcorare la parola, nasconderla, dirla. Mostruoso è ciò che ci colpisce fortemente, l'emotività. Non è detto che sia brutto il mostruoso, necessariamente. Molte volte è difforme rispetto alla nostra conformazione estetica, esteriore, quindi lo riteniamo comunque, è qualcosa che ci colpisce, ci prende allo stomaco. Dal momento che c'è il mostro, però, qual è l'atteggiamento migliore della grande macchina di riproduzione reale, la macchina dello spettacolo, dell'informazione, dell'emotività? Nasconderlo, celarlo, fare finta che sia normale e sia identico agli altri, o creare lui un glorioso posto nel grande cimitero delle persone normali, almeno hai l'ardire e l'orgoglio di essere mostro. Ma guardi, dal punto di vista del cosiddetto mostro, definendo mostro, diciamo, l'oggetto dell'attenzione, può anche darsi che questo mostrarsi gli faccia bene, però sicuramente, anche se non lo sanno, fa male a tutti gli altri, perché non si rendono conto che i mostri veri sono loro, siamo noi che ci nutriamo, secondo me morbosamente, di questa, diciamo, differenza abnorme rispetto a quello che è considerato il normale. Ecco, secondo me è una delle tante forme della pornografia. C'è la pornografia, diciamo, dei sentimenti, di quello che guarda la televisione perché vede l'altro che piange, si dispera, e c'è la pornografia, diciamo, della forma esterna, se vuole, cioè guarda quanto è brutto oppure guarda quanto è diverso, e uno viene attratto da questo. Ma io trovo la diversità anche un valore, la difformità rispetto agli schemi, i luoghi comuni, qualcosa da coltivare, qualcosa che interessa. Io vado in giro con le narici tese a cercare qualcosa di diverso che colpisca i miei sensi, ma diverso non è necessariamente mostruoso. Qua è un meccanismo diverso. La mostruosità esposta altrui in realtà cela alcune mostruosità immense, degli abissi inenarrabili da parte che crea. La televisione, che è una grande fabbrica di mostri, in realtà nasconde, edulcora la sua mostruosità intrinseca. Ma D'Urso è un po' una nipotina del Tognazzi della Donna Scimmia quando utilizza... Meraviglioso, questo nanettino piccolissimo che mettevano, contrapponevano a un gigantissimo signore, che poi facevano parte, ormai era un format che girava al mondo, era il Guinness dei primati, quindi ormai erano abituati. Però il piccolino ormai viveva della gloria di essere l'uomo più piccolo del mondo. Aveva una vocina che sembrava metallica, era spaventosa, perché era talmente piccolo che anche con un microfono davanti sembrava la voce di quei pupazzetti a molla. E saltellava, si inorgogliva, s'attizzava sulle tettone della D'Urso. Era anche un bello spettacolo a vedere. È morto, però noi ce lo ricordiamo proprio per quel suo ballonzolare sulle tette della D'Urso, sennò sarebbe tanto uno dei tanti signori di non so quale regione perduta della Mongolia, che di cui non avremmo mai avuto nessuna notizia. Sì, per il sorriso raggelante della normalità della D'Urso forse accentua questi contrasti, proprio come il volto anonimo di Tognazzi nella Donna Scimmia. Insomma, ci sono questi contrasti anche che creano il contesto. Poi, ci sono contesti e contesti, poi alcuni sono molto cinici, altri che analizzeremo in seguito nel corso della trasmissione sono diversi. 80024 non vi confondete con il film dei mostri, con il filone fantascientifico dei film mostruosi, delle creature, degli zombie, dei vampiri, dei mostri della laguna, degli alieni. Quella è tutt'altra cosa. Quelli sono i parti della fantasia, quelli sono delle rappresentazioni degli incubi, delle paure, delle attese. I veri mostri sono quelli che hanno gambe, braccia, occhi e bocca, perlomeno qualcosa che assomiglia a questo, che girano tra noi o che rappresentano quello che noi non vogliamo vedere della nostra carne, del nostro sangue, delle nostre amicizie, di quello che ci appartiene. Dottore! Addio! Io so di tutto, proprio male. Che devo fare? E che devi fare? Ce l'hai mamma e papà? Sì. Arrivate a da capo, poi ritorni. Oh, a Gambio, t'ha detto male con qua la palla, eh? Sì. Perché tuo padre con due gli ha detto bene. A Giovà! Che vai al giardino zoologico? Cine! E a quale gabbia te fa mette? Abbiamo visto sempre sfotto in giorno di questi incendi e ti faccio un grugno grasso così! Come sei diventato cattivo! A pensare che te lo portai noccioline! Sansonna, di chi stiamo parlando? Di una delle tante figure mostruose che hanno costellato il meraviglioso filone del cinema di genere degli anni 70-80, forse anche prima. Forse parliamo dell'archetipo di tutti questi, che è Salvatore Baccaro, ovvero un uomo affetto da acromegalia. È interessante capire come è entrato nel cinema. Acromegalia, che aveva questo tipo di enfisema, questo soffio, cos'è? No, aveva il volto gigantesco, deformato e quindi gigantesco, sembrava un uomo di Neanderthal. Lo scoprì mentre vendeva i fiori davanti a Cinecittà Carmelo Bene, in cerca di un apostolo per girare una scena della sua Salomè. Aveva bisogno, lui aveva creato questo Cristo mostro, vampiro, come il vampiro della genealogia della morale di Nietzsche, che dice: uno di voi mi tradirà. E aveva bisogno degli apostoli che gridassero tutti insieme: io, che facessero a gara chi tradiva Gesù. E individuò in Salvatore Baccaro, in questo venditore di fiori davanti a Cinecittà, l'apostolo ideale. Poi divoravano agnelli con dei rumori mostruosi. Quindi lo trasformò in un archetipo di qualcosa anche di orribile, ma allo stesso tempo di arcaico, perché con questo viso neandertaliano che aveva a causa di questa malattia. Fece anche dei film porno soft, mi ricordo, lo vidi una volta, una specie di film di del filone delle belve naziste. Come no? Lui è la bestia in calore, del film di Bazzella, in cui lui è usato da questa infermiera nazista per violentare prigioniere ebree, l'apice della mostruosità produttiva, registica, di sceneggiatura degli anni 70. I mostri della ragione uniti a una mostruosità creata e trovata. Un Goya mentale, un po' uno scenario di Goya che abitava le menti di chi elaborava questo, non del povero fioraio che invece veniva inserito. Lui attraverso vari cinema, da quello di Pasolini a quello di Carmelo Bene a quello più trito. Abbiamo sentito adesso delle clip invece legate al suo duetto con l'altro Frick, Alvaro Vitale, cioè un tapiro in forma d'uomo che, accostato alle bellezze di Nadia Cassini, di Barbara Boucher, di tutte le belle degli anni 70, e accentuava il suo contrasto, il suo viso tapiresco, e quindi c'è questo dialogo fra brutti, non si sa chi sia più oltre. Doveva far risaltare ancora di più le belle con il suo desiderio impossibile di uomo che in realtà non aveva né la forma fisica ma né il talento dell'intelletto e poter ambire a quelle bellezze, quindi ci arrivava soltanto sbavando, facendo rumori innominabili, provandoci e sbattendo sempre la faccia sul muro. Melog 2.0. Desidera? Ah, io sono venuto a prendere anche lei. Non è mai possibile anche lei. Quella non è in vendita, quella l'ha commessa, non è una scimmia. Ma cosa dice? Matto, quella è la mia bambina. Non è una babbuina, è una commessa. Quella è la mia bambina, mia figlia. Mariangela, vatti a cambiare che sono le 7. Mi scusi, non per fare un appunto, ma non so se si è reso conto che lei prima ha trattato mia figlia come se fosse una scimmia. Non so se... Vabbè, arrivederla, Vabbè. Mariangela, amore, vieni. Papà ti leva di qui, sai. Ho già fatto domanda per un impiego alle poste. Perché questo non è un posto per te, tesoro. Ehi, lei, cosa fa? Vuol fare il furbo, Si prende la sua! Fantozzi ragioni Rugo. Matricola 1001 Barabis. Mariangela Fantozzi, uno dei personaggi più rappresentativi della mostruosità paradossale. La figlia di Fantozzi è talmente brutta che tutti la prendono per una babbuina. Va a letto con un piccolo babbuino che mette dalla parte opposta della sua testa. Quando la sera va a dare il bacio della buonanotte, la figlia Fantozzi non sa se baciare il babbuino o baciare la figlia. Sono uguali. Ma lui l'ama lo stesso, la vuole lo stesso. Poi ci sarà anche un terrificante momento in cui la figlia cresce, Fantozzi va in pensione. Ma mi fermerei un attimo sull'interprete della figlia di Fantozzi, che ha una sua storia molto particolare, Giuseppe Sanzon. Lui è un perito elettromeccanico, è diventato il correlativo oggettivo della bruttezza femminile. Mamma mia, chi sei? La figlia di Fantozzi è diventato un luogo comune in tutti questi anni. E lui fu scelto perché si voleva una donna particolarmente scimmiesca, quindi non poteva essere interpretato da una donna vera, ma da un uomo con quei tratti particolari. Però si è sottratto a questo anche perché gli ultimi film non li ha fatti per una questione controversa, pare che i parenti non vogliano, insomma lo hanno sottratto un po' a questo ruolo. Lui ha sempre fatto la figlia di Fantozzi. Sì, però negli ultimissimi, no, da un certo punto in poi, dall'inizio degli anni 90, proprio nell'ultima parte c'è stato un blocco. Quando c'è la figlia di Fantozzi a sua volta aveva un figlio, non era più lui? Sì, da un certo punto in poi proprio per una questione di eredità. Però la cosa curiosa è che non si è fatto truccare una persona, ma si è scelto una persona che avesse un volto particolare. Questo richiama un po' all'idea che questi tratti particolari, questi tratti mostruosi, servissero per entrare nel mondo del cinema. I vari caratteristiche che analizzeremo, che abbiamo analizzato da Baccaro, ricordano un po' quello che faceva Lon Chaney nei film di Todd Browning, il padre di tutti i flicks, cioè il deformarsi il volto per poter sfamarsi, poter accedere al cinema, un modo per sbarcare il lunario, c'è una sorta di disperazione anche commovente, poetica in questo. Bombo lo stesso. Sulla storia c'è da dire qualcosa in più, però, sulla storia di Plinio Fernando. Plinio Fernando è sempre stato fuori dallo Star System, mai fatto un'intervista, mai visto in televisione, di lui non si sapeva nulla, si sapeva che era un attore caratterista che faceva figlia di Fantozzi, fino a che un anno e mezzo fa, mi pare, qualcuno uscendo dalla metropolitana lo incrociò e gli fece rubò un'intervista con un telefonino e la mise su YouTube. Fu una cosa talmente atroce, talmente brutta di questo signore che si schermiva, non voleva, non era d'accordo nel far vedere quello che lui realmente fosse. Ci fu una tale rivolta in rete di persone contro la persona che rubò l'intervista a Plinio Fernando che fu tolta, ma fece un caso, divenne un caso, te lo ricordi? Sì, io l'avevo incontrato, tra l'altro appena arrivato a Roma, lui abita nella zona di Roma in cui era arrivato e mi ricordo che viveva questa vita comunque appartata, non voleva essere ricordato e riferito al personaggio che aveva interpretato in tanti film. Sì, soprattutto perché era proprio Mariangela, lui non era trucco, quindi bastava vederlo e si riconosceva. Questo ha fermato per strada, c'è la figlia di Fantozzi. E questo ci ricollega un po' al discorso che oggi invece queste figure di caratteristi estremi sono un po' assenti dal mondo, dall'immaginario patinato e levigato delle fiction. Invece nel cinema lutulento degli anni 70, nel cinema sfaccettato, autoriale, di genere, apparivano e venivano in tutta la loro oscenità, in tutta la loro interezza anche virulenta. E questo è un dato interessante, su cui sarebbe interessante anche approfondire. Sentiamo qualche ascoltatore che ha chiamato all'800240024 per dare la sua valutazione, il suo punto di vista, la sua osservazione della mostruosità che ci circonda. Luca, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno Sanson. Io avrei due schegge veloci, due pillole veloci, proprio due in bocca. una appartiene al cinema americano, e in particolare David Lynch, dove non so se lì è stata una montatura quella del personaggio di Alex Van Man, e quindi non appartenesse in realtà a una. No, ma pare che esistesse veramente questo signore con questa deformazione del volto, non era una grande escrescenza che somigliava a una proboscide. Mamma mia, un lancinante, drammaticissima storia dove viene montata questa deformazione comica, dove io ricordo dei pianti lancinanti proprio. Sì, che lui non poteva dormire supino come sì, tutti, perché sennò sarebbe stato soffocato dalla sua deformità. Sì, e si suicida alla fine decidendo di non dormire più seduto come un elefante, vuole dormire come un essere umano, si stende e muore soffocato. Sì, tra l'altro deriso da tutti. E poi un'ultima forse un po' più appartenente alla nostra realtà, che era quella della adesso non ricordo esattamente il nome, ma questa persona veniva inquadrata a partire dai nostri così spettacoli d'attualità degli anni 70, dove veniva inquadrato e lui prendeva in bocca un'intera tazzina. E questa era una lancina, anche questa appartiene a così forse una deformazione abbastanza pittoresca. Sì, era quello tutto snodato e dinoccolato, adesso non te lo dico. Sì, sì, mi ricordo, metteva una tazzina in bocca, se la metteva tutta. Sì. Ed era assolutamente, all'epoca non so come veniva, come fosse presa la cosa, ma a me dava un'impressione, io appartengo agli anni 70, però dava assolutamente una brutta sensazione. Si scrive nella categoria di queste figure che cercano di sbarcare, di approdare nello star system, o sbarcare comunque il lunario, sfamarsi, mettere insieme il pranzo con la cena, mettendosi in gioco in maniera lancinante il proprio fisico, le proprie deformità, le proprie vocazioni anche più strane, più bizzarre, più strambe. Sì. Jack LaCayenne, ecco, Jack LaCayenne. Si chiamava Jack LaCayenne, penso che sia ancora vivo. Italiano. Sì, era un caratterista che faceva delle cose in televisione, era scioltissimo, aveva un corpo scioltissimo e... Aveva, fra le altre cose, faceva questo numero che si metteva una tazzina in bocca, se la mangiava, se la metteva completamente, la tirava fuori, aveva una sorta di mascella fortemente snodata. Enrico, buongiorno. Enrico sta camminando, sì, la stiamo chiamando. Senti Enrico, no, quando lo beccheremo? Gigi. Eccolo qua. Buongiorno a tutti. Un punto di vista un po' particolare. Io sono un endocrinologo. E mi occupo quindi per esempio di persone con nanismo, di persone con irsutismo, per esempio di persone con neurofibromatosi, mi riferisco alla Elephant Man, diciamo, sì, alla patologia. Quindi io purtroppo non posso far a meno nel vedere queste cose di provare una grossissima angoscia, conoscendo le grosse sofferenze psicologiche che ci sono dietro a queste malattie. Quindi per me vedere in televisione, in uno spettacolo in cui poi è finito, ecco, ping, chiaramente 2 secondi a chissà quale altra buffonata, vedere un malato di malattia così seria, non per niente appunto è morto, abbiamo detto qualche giorno fa, la sofferenza psicologica, abbiamo detto adesso che Elephant Man si è suicidato, vedere esposti uno spettacolo con cui, ripeto, poi con la più grande indifferenza si passa poi dopo 3 minuti, dopo l'applauso a pinga, una cosa da ridere, a me ha fatto veramente un male terribile. E secondo me ha ragione l'ascoltatore che parla di pornografia, è una cosa. Però adesso, senza, io non sono abituato a stracciarmi le vesti né a fare l'indignato, lo scandalizzato, io osservo e basta. Però le propongo un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti, in tutte le strade d'Italia, particolarmente estremo qui a Roma: i deformati che vengono dalla Romania, e sono piene le strade di Roma di persone, età media che va dai 20 ai 30 anni, che vengono probabilmente da dei luoghi dove queste persone venivano in altri tempi, in altre articolazioni sociopolitiche tenute in degli istituti, fanno parte di un mercato, è risaputo, perché non ho mai visto tanti storpi, deformi, gente senza braccia, senza gambe, con arti deformati in maniera talmente abnorme da far venire il sospetto che sia stato fatto artificialmente, come l'Onkiri, e che esista un'organizzazione che deforma le persone. Ne sono piene le strade di Roma. Hanno la capacità, l'arte, anzi un particolare talento nel non nascondere ma evidenziare la loro deformità. Quindi camminano su carretti, hanno degli evidenziatori di deformità, mostrano questo moncherino, questo adesso lei che è medico sa meglio di me quale potrebbe essere la patologia. Penso siano patologie genetiche dalla nascita, non so bene come, non credo siano state tagliate, perché sono deformità messi tutti assieme, e la sera si vede venirli a prendere con dei pulmini e portarli in un luogo di raccolta. Quindi al di là della televisione, siamo d'accordo che sia il ricettacolo di ogni nequizia, sotto le nostre strade tutti i giorni abbiamo un'esemplificazione dello sfruttamento del mostro. Sì, ma guardi, perché io, come dire, mi sono poi consolato dicendo perlomeno queste persone che andando in televisione spero abbiano guadagnato qualcosina e gli avrà fatto comodo portare a casa un po' di soldi. Sì, è diventato chiaro come certo, l'uomo certo, a tre teste e la donna con la barba, è chiaro sì, che sì. Però mi perdoni, ecco, l'immagine, non so, dico, di troupe televisive che si potrebbero aggirare per i reparti di reparti ospedali per cercare persone deformi da portare in televisione, ripeto, in spettacoli, in programmi di questo genere, di puro intrattenimento, è una cosa, ripeto, che non riesco a condividere in nessun modo. Ma una io cosa, le deformità una... che trovo più esposte sono deformità legate alle problematiche interiori, alle relazioni. Per anni la televisione è stata piena di casi umani e tuttora lo è. Gli stessi casi umani che vanno alle Isole dei Famosi, che nel reality mostrano il loro, anzi accentuano il loro essere caso umano, perché si vince la gara quanto più lo si è casi umani. Lo spettro ferreriano, la profezia ferreriana si avverrà tra la donna e scimmia, è del 64, quindi insomma. Melog 2.0. Tutto a posto, ti tolgo l'occhio sinistro e ti asci il destro. Ma sia capitato, io pure fammi dare un occhio. Ma non dire sciocchezze, ma lo vedi che sei strabico così, ci vedi confuso, nebuloso, sei pure brutto con due occhi. Scusami, ma io lo dico per il tuo bene. Invece ti tolgo il sinistro, ti metto la bella bendita sul destro, così non ci vedi più un cazzo e ti danno pure il cane lupo, eh? Sì, il cane lupo sei mi completo, piace, sì, fa bu bu bu bu. Giuseppe Sansonna, il mostro dei mostri, talmente mostruoso da essere considerato un fenomeno. E questo è proprio il caso archetipico di quello di cui parlavamo prima. Lui si mette in gioco come corpo. Jimmy il fenomeno, Luigi origine Soffrano, proveniente da Foggia, che con questo è un tic vivente con questa sua parlata incomprensibile foggiana, questo strabismo, questa faccia pronta per accogliere gli schiaffi di tutti i comprimari. Qui c'era Gianfranco D'Angelo che lo sottopone a sevizie mediche d'ogni tipo. Rappresenta proprio l'uomo che cerca di approdare al mondo patinato del cinema e gioca con la sua difformità, che la esibisce nella maniera più straziante, più esilarante allo stesso tempo, e ha collezionato una serie infinita di camei dove fa sempre lo scemo del villaggio, rappresenta sempre questa patologia intermittente che entra in tutto il cinema di genere italiano. Andiamo avanti perché vorrei velocemente esporre la galleria dei mostri più mostri, quelli che più sono rimasti nella nostra memoria. Qui ci perdiamo in chiacchiere, perdiamo tempo, mentre i ladri rubano le automobili come se fossero bruscolini. È crudescenza, c'è. Chi è questo? La gente va parlando di fresca nomina. Ma sì, cosa hai detto? È crudescenza. Ma che c'è l'asma? Che c'è? No, è cacaglio, dottore. E me lo mandano qui, la gente è cacaglio. E non ci deve essere questa recrudescenza. Capito? Signor sì! Oh, sa. Oh, ma che c'è un aspirapolvere in bocca, no, questo? Parla con l'isucchio, accorto? E non deve risucchiare, non risucchiare. Questo è durato per molti anni, sì, sì. Questo del risucchio, chi era? Nino Terzo, apparteneva al clan di Franco e Ciccio, che si vedono qui a Piazza Indipendenza, come abbiamo detto nella puntata dedicata a loro. Era questo clan di caratteristiche che trovavano sempre posto qui nel cinema di Totò. Lui ha fatto tantissimi film, c'è un periodo che Nino Terzo era in tutti i film di questi di Alvaro Vitali, questi di serie B, i B-movie di quegli anni c'era sempre, anche perché un personaggio che parlava pochissimo, ansimava. Era un enfisema vivente lui, nel suo caso, questi baffoni alla Iacovitti. Poi qui usa un termine anche forbito, recrudescenza, no? Anche questi termini colti, messi in bocca a queste figure che provenivano dal sud. Anche del genere militaresco, quante dottoresse del distretto militare, quanti marmittoni, c'era sempre lui che faceva il caporale di giornata, il sergente, a seconda delle circostanze. Erano, al di là della sceneggiatura, erano previsti questi camei, queste entrate, queste perle nel fango, o fango nelle perle, a seconda dei punti di vista, che approdavano, arrivavano, erano epifanie, insomma. Questo è il suo lavoro. Tutto qui? Tutto qui. Semplice? Semplicissimo. Grazie, la sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Chiaro? Chiarissimo. Semplice? Semplicissimo. Semplicissimo. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Grazie, la sua soddisfazione è il nostro miglior premio. di chi stiamo parlando qui invece? Questo è il film è Viene avanti cretino di Luciano Sarci, e questo è Alfonso Thomas. Anche lui apparteneva al gregge dei caratteristi reclutati da Franco e Ciccio, che si vedevano qui al bar. Qual era la sua caratteristica? La sua caratteristica era quello di avere questo riporto d'antan e questa serie di tic combinati che citavano in maniera pecoreccia il Chaplin di tempi moderni, cioè la meccanizzazione dell'individuo e le sue patologie, gli estremi a cui porta la meccanizzazione. Abbiamo pochissimi esempi, a parte la donna barbuta, di donne mostruose, se non forse una nel film di Fantozzi, che non a caso in Fantozzi, che proprio è destinato, che tutti i suoi affetti, tutte le sue concupiscenze, tutti i suoi desideri sono sempre appoggiati in maniera attiva, in maniera passiva, su persone che hanno una sua mostruosità. La signorina Silvani era da tempo preda di tentazioni suicide. Dopo la decima ingiunzione di sfratto esecutivo forzoso, l'unica tragica alternativa al nodo scorsoio era il ricovero nel pio istituto Relitti Umani di Santa Moribonda. Vide in Fantozzi una insperata ancora di salvezza e decise di attaccarsi a lui con una cozza allo scoglio. Ah, ah, Fantozzino, è lei! Sì, signorina, come bello. Grazie. Ecco, Anna Mazzamaro è un paradosso, perché in realtà fa la parte di donna seducente, una vamp. Nel suo ufficio è veramente la maliarda dell'ufficio, quella che la fa annusare a tutti, la dà a pochissimi, pur avendo una accentuazione mostruosa nel suo volto, nel come quando la Mazzamaro modula le labbra nel bacio simulato, Fantozzi va in estasi. Sì, ha una voce terribile, un gracchio allucinante. E qui siamo nella fase conclusiva di Fantozzi, siamo nel Fantozzi già decadente, che perde secondo me un po' dello spirito comico, perché proprio invecchiando i comici diventano troppo patetici, il tragico non è più sostenibile. Invece nei primi Fantozzi lei era proprio la vamp vestita in rosso e sedotta poi da Calboni, che invece rappresentava il Gastone rispetto al Paperino. Fantozzi rappresentava il vincente nel microcosmo terribile dell'ufficio. Tutto quindi ha una connotazione mostruosa, anche i vincenti in quel microcosmo. Ecco, negli ultimi film di Fantozzi, quando lui è ormai vecchio, così gli turlupina gli ultimi milioni per andarsi a rifare. Esce dalla clinica estetica con le labbra rifatte, con le tette rifatte, il culo rifatto. Si sente bellissima, ma in realtà è l'ultima fase della mostrificazione. È l'ultimo anello che la separava realmente da un essere totalmente mostruoso e non più umano. Maestro, il mio figlio sa fa che gente importante, a me mi tocca stacchi i fregnoni come te. A proposito dei fregnoni, io lo dico. Ma che ho detto? Tu hai detto a proposito dei fregnoni, chi è il fregnone? Io, ispettore. Io lo dissi, ma poteva fare due fogli di carta intestata. Siccome ho fatto un blocco di cartoleria, ci stanno quaderni, pennini, inchiostri. Con questi fogli di carta intestata della questura, mi trovo tutte le porte aperte. Ma che ho detto? Allora tu vuoi i fogli da questura per rivendere la roba rubata, a 26? Ma non sei, papisci, allora piantamela, no? No, sei tu che avevi piantato rubata, 26. Tu avevi piantato rubata. Ecco, qui 26 è un personaggio ricorrente di Bombolo, ma anche Bombolo è stato un tappabuchi totale nel cinema di genere italiano. Lui vendeva pentole a Campo dei Fiori, reclutato dal cinema, prima come comparsa e poi come presenza fissa, con questo pianto da fumetto, questo, anche lui, questo riporto molto esibito, questi occhi strabuzzati, questa voce gutturale, sempre pronto a subire le angherie di Thomas Milian e altri, insomma, vittima predestinata. E questo era il suo ruolo. Anche qui c'è l'approdo dalla strada, il tentativo di attingere a un mondo ricco, patinato, che è quello del cinema. Scrive un ascoltatore su Facebook, dice che Jimmy il Fenomeno aveva la fama di portare fortuna. Pare sì, che fosse fortuna. Anche nel mondo del calcio pare che portasse fortuna, infatti lui ha bazzicato anche il mondo dei mercati calcistici. Lo portano dietro come mascotte. Sì. Sentiamo velocemente Enrico. Enrico? Buongiorno Nicoletti. Molto velocemente, stiamo chiudendo. Ecco, io secondo me i nuovi mostri se ne vedono tanti, io vi bambiano. E sono queste persone che sono rifatte magari 20 anni fa, il viso, le labbra, gli occhi e quant'altro. Insomma, ecco, io delle volte vedo, mi sembrano delle grosse salamandre. Sì, a me dispiace molto, personaggi che hanno segnato molto la mia vita emotiva e anche le mie diottrie, come Sandra Milo, vederla in quello stato di decomposizione controllata nell'Isola dei Famosi mi fa veramente soffrire. È una splendida giornata di novembre. e Rocco Cane, più che mai pieno di voglia di sesso, si aggira per la dolce campagna palermitana. Purtroppo, non trovando prede, Rocco è costretto a scavare un buco nel terreno. Alleggeritosi, Rocco riprende il cammino. Sono stato sopato. Sto soprato. Sto soprato. Ma le candole. Giuseppe Sansonna, Cipremaresco, l'ultima fase del girone infernale. Due autori che hanno fatto la mostruosità, la cifra unica del loro cinema, e per questo sono stati considerati eretici e quasi esiliati a vita dal cinema italiano. Sono i loro mostri postmoderni in queste borgate palermitane, quindi un cinema colto che si occupa dei mostri, laddove prima facevano parte del cinema di genere, qui li inserisce in un discorso. E qui non c'è eccezione, non c'è nessuno che non sia mostro, è il regno dei mostri soltanto. Completo, non c'è bellezza, è la fine, è una profezia apocalittica quella di Cipremaresco. E per questo si sono guadagnati il lussuoso privilegio della scomunica totale, ne parlano pochissimo, ma hanno un grande valore. Il rogo del loro cinema, sì. Grazie a Giuseppe Sansonna, grazie a quanti hanno telefonato e soprattutto grazie a quelli che mi hanno scritto su Facebook, in particolare questa mattina. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.